America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Grande giornata di inaugurazione, ne abbiamo parlato ieri, dopodiché l'America riprende il suo corso normale. Abbiamo avuto delle notizie interessanti sul fronte della borsa, perché la IBM e Google hanno avuto risultati trimestrali molto meglio di quello che si aspettavano gli analisti. Google soprattutto è riuscita a mettere insieme dei risultati molto positivi dal punto di vista della veicolazione della pubblicità. Altra notizia, Microsoft ha deciso di entrare in corsa per acquistare una quota della Dell Computer, che è in pessime difficoltà. Perché vi riferisco queste notizie? Perché sono queste piccole tessere di un grande mosaico che poi fanno l'economia americana, al di là di quello che dicono o che promettono i politici. E sul fronte politico in effetti ci sono un po' di litigi. Have you had enough of the liberal left giving itself 100% permission to say what it wants while telling you that if you disagree with them, you are somehow mean-spirited, racist, or uneducated. E vi dicevo ieri che non sapevo quanto la luna di miele sarebbe durata tra repubblicani e democratici, tra repubblicani nei confronti di Barack Obama, che si insediava per il suo secondo mandato. Beh, durata pochissimo, perché già ieri ci sono state delle critiche durissime da parte dei repubblicani su quella che secondo loro è un'agenda troppo progressista, troppo liberal, senza chiudere il cerchio su quelli che sono invece i problemi veri dell'America, cioè ridurre le spese dello Stato. Resta il muro contro muro, non soltanto sul disavanzo, non soltanto su tagli alla spesa, non soltanto sull'immigrazione, ma anche sulla questione delle armi. We know such violence has terrible consequences for our society. And if there is even one thing that we can do to prevent any of these events, we have a deep obligation, all of us, to try. Nel suo discorso, lo avete sentito, Barack Obama ha promesso di andare avanti col suo obiettivo di ridurre, di rendere più difficile la vendita di armi negli Stati Uniti. Su questo naturalmente i repubblicani hanno di nuovo trovato da ridire, se non che proprio ieri al Lone Star College in Texas c'è stata un'altra sparatoria fra studenti. Mi colpisce tra l'altro che questa cosa avvenga proprio in Texas, dove il governatore Rick Perry, pensate, ve lo ricorderete, Rick Perry era un personaggio che così ha fatto parlare molto di sé durante le primarie repubblicane. Bene, il governatore, commentando la sparatoria che ha portato alla morte di 20 bambini alla Sandy School di Newtown in Connecticut, ha detto: ma io risponderei a questa situazione in modo molto semplice, tutti dovrebbero portare le armi nelle scuole americane, in questo modo si sarebbe forse più tranquilli. Ecco, e purtroppo però nel Lone Star College le armi non c'erano, ma la sparatoria c'è stata lo stesso. Ecco, la cosa che mi colpisce molto è che siamo arrivati ormai alla sesta sparatoria o in un campus universitario dopo una partita di football nel 2013. Non è neanche finito il mese di gennaio e dunque c'è qualche cosa di molto più profondo, radicato, che non il semplice controllo delle armi che sta turbando questo paese. Ecco, mi ha colpito un lungo saggio di Randall Collins, che è uno dei principali esperti americani di sociologia di queste sparatorie di massa, un sociologo molto importante. E dunque la sua impressione è che ci siano delle tipologie molto particolari che vanno a definire questi personaggi che all'improvviso prendono e vanno a sparare. Per esempio, sono dei solitari, molto spesso agiscono da soli, non agiscono in gruppo. Hanno una connotazione molto diversa, per esempio, dall'attentatore che è un attentatore suicida, come possono essere dei fanatici dell'estremismo islamico. Non sono dei suicidi, o meglio, non lo sono subito, perché devono vivere l'azione, devono avere una pistola in mano e compiere questa azione. Tendono a non avere un rapporto diretto o una storia di qualche genere con le persone che poi vanno ad uccidere. Questo è vero non soltanto per quello che è successo negli Stati Uniti, ma anche per quello che è successo in Norvegia. Dunque emerge una tipologia molto particolare, una tipologia sociologica, e io credo che è su quello che si dovrà lavorare. Si è parlato molto, per esempio, dei giochi elettronici, che possono rappresentare uno stimolo negativo per alcuni ragazzi. Si è parlato della necessità di portare un certo tipo di educazione nella scuola, ma poi alla fine si torna al fatto che se ci sono meno armi per strada, la gente tende a non usarle e dunque cerchiamo di controllarle. O con me ai microfoni di America 24 Stefania Spatti, che è con noi in redazione e che ha seguito la sparatoria di ieri, che ha seguito l'eccidio di Newtown della scuola di Sandy. Stefania, buongiorno intanto. Buongiorno Mario. Allora Stefania, intanto raccontaci cosa è successo alla Lone Star University. Beh, è molto semplice, una lite tra due persone ha dato il là a una sparatoria, il fuoco incrociato ha colpito un bidello, uno degli autori della sparatoria stessa, e un terzo individuo. Quindi scusa, c'era un bidello che si è messo a sparare? No, due persone hanno aperto al fuoco, erano protagoniste praticamente di una lite e improvvisamente... E sappiamo perché hanno litigato, cos'era successo? Non lo sappiamo ancora, quello che sappiamo però è che hanno tirato fuori dalle loro tasche queste pistole, hanno iniziato e aperto un fuoco incrociato. E questi erano dei ragazzi, erano degli studenti? Pare di sì, anche se in questo momento informazioni e dettagli di questo tipo non le sappiamo. Quello che sappiamo è che due persone litigavano, hanno deciso di... spararsi vicenda, diciamo come nel Far West, essendo come in Texas, Far West, con un'estrema facilità che forse a noi italiani sembra assolutamente assurda, e facendo questo hanno colpito casualmente due persone. Una delle persone che ha aperto il fuoco è stata immediatamente colpita e catturata, invece sono passate diverse ore prima che anche il secondo autore della sparatoria fosse catturato. E pare, la cosa curiosa, anche questa in realtà da confermare, è che si sia consegnato direttamente alle autorità perché è andato a farsi curare in ospedale. Ecco, però ci sono stati dei feriti, in questo caso per fortuna non ci sono stati dei morti. Nessun morto, anche se si parla di condizioni gravi in alcuni casi. Ecco, però la psicosi della sparatoria dilaga, mi ricordo alcune cifre, ci sono 30.000 morti in America per incidenti che comportano l'uso delle armi da fuoco. Ecco, che idea ti sei fatta, Stefania? Poco fa così parlavo un po' della componente sociologica e delle connotazioni che riguardano un po' coloro che compiono le stragi. In questo caso non era una strage, era più una lite, quindi un po' diverso. Ma tu hai seguito anche l'eccidio di Newtown, di Sandy, l'uccisione di questi bambini. Ecco, che idea ti sei fatta di quel che sta capitando sociologicamente in questo paese? Direi che il comune denominatore è che si tratta di persone che hanno una storia familiare difficile o un passato irrisolto con dei problemi che ancora devono essere sciolti. E quindi la proposta di Randall Collins in questo senso potrebbe essere d'aiuto e va perfettamente in linea con l'ultima proposta di Obama, che è quella di creare un database che permetterebbe appunto di anticipare, individuando determinate tipologie di individui, le stragi come quella dello scorso 14 dicembre a Newtown. Insomma, si tratta di iniziative assolutamente importanti, ma credo che, come ha detto Obama, la cosa più importante è spingere sul controllo delle armi, prima di tutto nelle scuole. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, notizia, Justin Bieber ha sorpassato Lady Gaga come numero di follower su Twitter. Pensate, ha raggiunto il record di 33.315.521 persone che lo seguono, 33 milioni. E Lady Gaga 33.315.459. Stiamo parlando di una differenza di 80 circa followers. E potrà cambiare, sarà una partita aperta, perché si stima che Bieber avanza su Twitter al ritmo di 40.000 nuovi followers al giorno. Beh, cifra straordinaria dunque a questo suo record, e a lui dedichiamo la canzone del giorno, Believe. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.